25 novembre, buongiorno a tutti voi, siete all'ascolto di Radio Città Fucico, che con la sua Radio Zanardi e poi con la rassegna stampa andrà un po' le informazioni, almeno a partire dai giornali, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. 25 novembre tutto l'anno. Un benvenuto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Bullets. Io sono Angela Gennaro e questo è il nostro notiziario di genere. Quella del 25 novembre è una ricorrenza istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54-134 del 17 dicembre 1999. Ma perché proprio il 25 novembre? L'Assemblea Generale dell'ONU, si legge su Wikipedia, ha ufficializzato una data scelta da un gruppo di donne attiviste che si erano riunite nell'incontro femminista latinoamericano e dei Caraibi a Bogotà nel 1981. Alla base, l'idea di ricordarlo abbiamo già raccontato in passato qui su Radio Bullets, il brutale assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal, considerate, si legge ancora sull'Enciclopedia Libera, esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di Rafael Leonidas Trujillo, il dittatore che ha tenuto la Repubblica Dominicana nell'arretratezza e nel caos per 30 anni, dal 1930 al 1961. Il 25 novembre 1960, infatti, le sorelle Mirabal, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, sono state bloccate sulla strada da agenti del servizio di informazione militare. Portate in un luogo nascosto nelle vicinanze, sono state stuprate, torturate, massacrate a colpi di bastone e strangolate, per poi essere buttate via, gettate in un precipizio a bordo della loro auto per simulare un incidente. Così nasce. Cosa succede da noi? La giornata internazionale contro la violenza di genere si celebra in Italia solo dal 2005, si legge ancora su Wikipedia, per iniziativa di alcuni centri antiviolenza e di case delle donne. Nel 2007, la ricorderete forse, 100.000 donne, 40.000, grande classico secondo la questura, hanno manifestato a Roma contro la violenza sulle donne senza alcuna bandiera politica. Sui cartelloni c'è scritta sempre, tra le altre, la stessa frase: l'assassinio non bussa alle chiavi di casa. Ricorderete forse anche che c'erano state polemiche sul separatismo, sulla partecipazione degli uomini. Qualcosa stava cambiando? Poi c'è stata, se non ora quando, nel 2011, e poi da 4 anni a questa parte, una più matura, forse, e una più inclusiva rivolta dell'identità internazionale, transnazionale e transfemminista, non una di meno. Sabato scorso a Roma la manifestazione con in piazza migliaia di persone. Il movimento, non una di meno, si sa, ha le sue radici in Argentina. Qui alcune giornaliste e docenti nel 2015 si erano mobilitate contro le violenze di genere, contro i femminicidi che si stavano consumando e che si consumano tuttora nel paese. Ni una menos, iniziano a ripetere, e lo slogan è ispirato a un testo della poeta e attivista messicana Susana Chavez, ni una mujer menos, ni una muerta más. Chavez era stata uccisa nel 2011 per aver denunciato i crimini contro le donne in Messico. Ni una menos, come slogan, passa dalla vita reale a quella virtuale, diventa un hashtag e poi rimbalza nuovamente nella vita reale con la manifestazione del 3 giugno del 2015 a Buenos Aires. Centinaia di migliaia di persone per le strade per dire basta a una società che permette l'uccisione in media di una donna ogni 30 ore. Oggi, anno 2019, nell'appello per la manifestazione di Roma, le attiviste di Non Una Di Meno ricordano che quel movimento globale, con in mezzo il MeToo cominciato nel 2017 con lo scandalo Weinstein, non si è mai fermato, in Italia e non solo. In tutto il mondo le donne sono in rivolta contro la violenza patriarcale, razzista, istituzionale, ambientale, economica, dicono le attiviste di Non Una Di Meno. In Sud America, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, in Europa, le donne e le persone LGBTQIPA+, stanno affermando chiaramente che nessun processo di democratizzazione e liberazione è possibile senza trasformazione radicale dell'esistente. In Cile, in Messico, in Ecuador, in Argentina, in Brasile, le donne lottano contro la violenza patriarcale ed economica che attacca i corpi e l'ambiente. E poi ci sono loro, le donne curde. Stanno difendendo e portando avanti un processo rivoluzionario femminista, ecologista e democratico e combattono per la liberazione da ogni fondamentalismo e contro l'autoritarismo turco, dicono ancora le attiviste di Non Una di Meno. Donne biologiche e non, soggettività di ogni genere, LGBTQI+, ma anche uomini in piazza, in Italia e nel mondo. Perché? Perché i numeri non lasciano scampo ai quattro angoli del globo. Euronews, per esempio, fa il punto sul vecchio continente, ma non solo. Il 131esimo femminicidio in Francia è stato vissuto con grande sdegno nel paese, si legge, nel momento in cui è la figlia della vittima a raccontare quello che ha visto, l'uccisione di sua madre. Erano stati insieme per tre o quattro anni in cui lei veniva picchiata, non ha mai voluto parlarne per paura, racconta Stella, di sua madre. La giovane spiega di essere arrivata troppo tardi e di aver assistito agli ultimi momenti di vita di sua mamma, Silvia. Il fidanzato della quarantenne l'ha pugnalata a morte. Va bene presentare una denuncia, ma non aiuta, spiega Stella, raccontando i passi che sua madre aveva pur compiuto per avvisare le autorità prima di essere uccisa. La polizia è semplicemente arrivata troppo tardi. Solo due giorni prima della morte di Silvia, una donna di 34 anni è morta a Levallois-Perret, un sobborgo di Parigi, dopo essere stata strangolata dal suo compagno. Il giorno dopo la morte di Silvia, una madre di tre figli, è stata strangolata anche lei dal suo ex, secondo quanto racconta Le Parisien. Si stima che il 35% delle donne in tutto il mondo, circa una donna su tre, abbia subito violenza domestica o sessuale, ricorda ancora Euronews. È una percentuale che molti esperti trovano sconcertante perché rivela una crisi globale di violenza di genere. Trovo molto triste il fatto che in ogni società vi sia violenza contro le donne. In ogni società, dice Marceline Naudi, presidente del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sull'azione contro la violenza contro le donne e la violenza domestica. Non credo che possiamo dire che alcune società sono peggiori di altre, perché purtroppo i numeri, una su tre, una su quattro, sono gli stessi quasi ovunque. Il 51% delle 87.000 donne uccise intenzionalmente nel 2017 sono state ammazzate da partner intimi o familiari, secondo le Nazioni Unite, scrive ancora Euronews. L'assassino ha le chiavi di casa. Mentre la stragrande maggioranza delle vittime di omicidi sono uomini, in generale, uccisi da estranei, le donne hanno molta più probabilità di morire per mano di qualcuno che conoscono, scrive Yuri Fedotov, direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Ma poche sono le statistiche in tutta Europa sul tema, ricorda ancora Euronews. Le percentuali di donne che affermano di aver subito violenze sono ancora più elevate nei paesi dell'Europa orientale e sud-orientale, dove il 70% delle donne racconta di aver subito qualche forma di violenza da quando compie 15 anni. Il 45% delle donne intervistate ha dichiarato di aver subito almeno una forma di molestia sessuale e il 21% di aver subito violenza fisica, sessuale o psicologica durante l'infanzia. L'indagine pubblicata dal Servizio di Azione Esterna dell'Unione Europea ha acceso un faro sulla violenza contro le donne in Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Moldavia e Ucraina, ma il sondaggio è uno dei pochi studi completi sull'argomento. E ora due flash da paesi ancora più lontani a raccontare che questo fenomeno attraversa i quattro angoli del globo. In Kelantan, per esempio, uno degli stati della Malesia, la polizia descrive come allarmante il numero di casi di violenza domestica e sessuale segnalati quest'anno. Il capo della polizia riferisce di un totale di 594 casi segnalati da gennaio a ottobre, con la violenza contro le donne in cima alla lista con 499 casi. 54 sono stati i casi di stupro. Il Kelantan ha una popolazione di nemmeno 2 milioni di abitanti. I casi di violenza domestica includono abusi su minori, mogli, ma anche donne delle pulizie. L'anno scorso sono stati registrati in totale 692 casi, con 590 di essi di violenza domestica e 90 casi di stupro. E poi la Russia, ne abbiamo parlato spesso qui su Radio Bullets. 2 anni fa, ricorda la BBC, molti russi furono scioccati quando il Parlamento ridusse significativamente le sanzioni per la violenza domestica. Da allora le donne hanno reagito. Ecco per esempio la storia di Margarita Gracheva, raccontata ancora dalla BBC. La mattina dell'11 dicembre 2017 il marito di Margarita, Dimitri, si offre di darle un passaggio per andare al lavoro. Guida invece in direzione opposta verso la foresta, parcheggia la macchina, prende un'ascia dal bagagliaio e le taglia entrambe le mani, quindi la scarica al pronto soccorso dell'ospedale locale a Serpukhov, a sud di Mosca, prima di guidare fino alla stazione di polizia e costituirsi. La coppia si era incontrata a scuola e aveva iniziato a frequentarsi dopo il college. Inizialmente erano felici, anche se lui si infiammava facilmente per cose insignificanti e giurava che l'avrebbe uccisa se gli fosse stata infedele. La loro relazione è peggiorata quando Margarita ha iniziato a lavorare nella sezione pubblicità del giornale Serpukhov. Pur avendo una laurea, Dmitri era riuscito a trovare lavoro solo alla guida di un carrello elevatore. È risentito naturalmente per la carriera di Margarita, è geloso, grande classico, dei suoi colleghi maschi. La ignora quando Margarita gli dice di separarsi, ma diventa una furia quando vede i documenti del divorzio. La picchia, i bambini vedono i lividi. Quando la minaccia con un coltello, lei va dalla polizia. Ho scritto una dichiarazione e il funzionario ha detto che sarebbero tornati da me, mi avrebbero fatto sapere dopo 20 giorni, dice Margarita. Ho spiegato che per allora avrebbe potuto tentare di uccidermi 20 volte. L'addetto al desk le spiega che le donne presentano spesso reclami solo per ritirarli in seguito, il che li inonda la polizia di scartoffie. 5 giorni dopo che il suo caso è stato archiviato per mancanza di prove, Dmitri amputa le mani a Margarita. La sua mano sinistra mutilata è stata recuperata nella foresta e ricucita con un'operazione di 9 ore. Una campagna di crowdfunding ha raccolto 6 milioni di rubli per una protesi per la mano destra che le è stata installata in Germania. Sebbene Margarita abbia pubblicato un libro sulla sua guarigione intitolato Happy Without Hands, non voleva in realtà farsi molta pubblicità. Ma la cosa terribile è che per essere sicura che Dmitri ricevesse una pena detentiva più lunga aveva bisogno dell'aiuto dei media. Già, perché si legge ancora sulla BBC, i suoi avvocati le avevano spiegato che se non fosse comparsa, per esempio, sulla televisione nazionale, Dmitri sarebbe presumibilmente uscito di prigione dopo 3, al massimo 5 anni. La pressione dell'opinione pubblica era quindi essenziale e Margarita ha seguito il consiglio dei suoi avvocati. Dmitri è stato condannato a 14 anni. La Russia non tiene statistiche sulle morti causate dalla violenza domestica, la violenza intima dei partner, scrive ancora la BBC, ma il Ministero dell'Interno afferma che il 40% dei crimini gravi e violenti si verifica all'interno della famiglia. Le stime più prudenti suggeriscono che la violenza domestica uccide centinaia di donne ogni anno. E anche per oggi, con il notiziario di genere di Radio Bullets, è tutto. Ricordatevi che il 25 novembre è tutto l'anno e io vi do appuntamento a lunedì prossimo. E se nel frattempo volete sostenere il nostro lavoro, il link da seguire è radiobullets.com/sostienici. che non sa più vincere, quello che strappa il pareggio con un euro gol di Zemaili al 95esimo. Bologna che ha, oltre ad aver perso la strada della vittoria e soprattutto in casa, ha perso in questo momento anche la strada del gioco. È un Parma che arriva a Bologna con tante assenze, qualcuno ne chiamavano anche i ragazzi rossoblù, ma che ha dalla sua parte invece, nonostante appunto non avendo disposto tutti i titolari, ha un gioco migliore, con più aggressività, con più a mio avviso verve, chiari che cosa fare, come giocare. Bologna che probabilmente viene colpito a freddo dal bellissimo gol di Kulusevski, giocatore in prestito dall'Atalanta, che poi per tutta la partita onestamente farà il bello e il cattivo tempo. Lì Bologna è un po' sorpreso e entra nel tunnel della paura della terza sconfitta consecutiva. Poi invece si aggrappa ai giocatori sicuramente più di talento, vale a dire Palacio e Orsolini, e prima con una grande parata di Sepe che porta il calcio d'angolo, poi calcio d'angolo ben tirato da Orsolini, arriva di testa Palacio che mette in gol del pareggio. Qui onestamente ci si aspettava un po' un cambio di passo, che non avviene. Bologna che ha in attacco alle assenze sia di Santander, che rimarrà fuori ancora un paio di settimane, di Mattia Destro, e in difesa c'era la nuova coppia centrale con Tomiyasu e Dansville. Bologna ha sicuramente in questo momento un problema in difesa. 15 gol presi nelle ultime 7 partite è un segnale abbastanza eloquente. Poi possiamo raccontarci che il centrocampo non fa il filtro di prima, ma la mia sensazione invece è che è una squadra che ha un po' perso le certezze che aveva prima, e che gli episodi come il gol dopo 17 minuti segnano in maniera negativa. Auguriamoci che invece il gol al 95esimo, che dimostra che questa squadra ci ha sempre creduto, è un gol che arriva da una testa di Paz che, visto la mancanza di difensori centrali, è dovuto poi scendere il campo nel finale. Diciamo che questa sia la possibilità di capire che il gruppo ha sicuramente coraggio e voglia in questo momento, come dicevamo, della sconfitta anche contro il Sassuolo, ha perso un attimo la capacità del gioco che si era visto fino appunto a quella gara. Ora la classifica è rimasta tale perché è rimasto al 15° posto, sono 4 punti dalla zona retrocessione, ma il Genoa gioca poi questa sera, così come il Lecce, che non ha potuto disputare ieri sera per maltempo la sua gara. Domenica alle 18 si va a Napoli, che è sicuramente una squadra con un tasso tecnico superiore ai rossoblù, ma che ha viene da dei momenti a vuoto, quindi non è mai semplice andare incontro a queste partite, perché possono essere quelle della svolta, e auguriamoci di no, o possono essere quelle che non fanno altro che creare ancora più problemi in un gruppo che mi pare non molto saldo, quello partenopeo. Bologna che veniva da una settimana con la buona notizia della dimissione dell'ospedale cinese Mihajlovic per l'avvenuto trapianto di midollo osseo, ora vediamo se in settimana tornerà anche al campo, ma la tranquillità e sicuramente la prospettiva di probabilmente qualche correttivo nel mercato di gennaio, che non sia solo la chimera Ibrahimovic, probabilmente servirà. In questo momento chi sosteneva questa squadra ha bisogno di una punta, ha sicuramente ragione, perché fa fatica, l'aspetto, a mio avviso, su cui puntare il dito è invece il discorso del gioco, che non c'è più. Vediamo se in settimana, oltre, verranno recuperati due difensori centrali perché erano squalificati. Vediamo se Soriano tornerà in gruppo, e appunto vedere di dare tranquillità a una squadra che non è quella che fa 7 punti nelle prime tre, ma non è neanche quella vista nelle ultime due gare. Chi invece fa una grande impresa, la Fortitudo, che sbanca Desio e vince contro Cantù dopo un tempo supplementare 82-84, seconda vittoria consecutiva dopo la bella prova della settimana scorsa contro Milano, che finisce i primi due quarti sotto i 14, sicuramente non facendo felice coach Antimo Martino, che anche con un tecnico prova a scuotere i propri ragazzi. Poi nella ripresa, come spesso capita, un po' le colpe di Cantù e un po' i meriti della Fortitudo riaprono completamente la partita. È un terzo quarto che finisce 20-10 per i bolognesi, e lì Cantù tutte le certezze che aveva avuto nei primi due quarti le perde completamente, e qui attaccandosi a Radori, che alla fine ne fa 23, ma anche Robertson 17, Sims 15, ma un Lunen sicuramente chirurgico che fa 12 punti, e assieme a Stipcevic fanno probabilmente i 5 punti finali della vittoria. Una Fortitudo che fino a quando viene messa sotto fisicamente fa onestamente una fatica importante. Poi invece, quando il fisico non conta più e si inizia a giocare a pallacanestro, avere in squadra giocatori dell'esperienza di Aradori, di Lunen, sicuramente è un valore aggiunto. Una Fortitudo che ora ha un record di 6 vinte e 4 perse, domenica riposa per il turno previsto, che è un campionato è dispari, una vittoria molto importante che dà fiducia anche per una squadra che lontano dal Paladozza aveva spesso balbettato, una vittoria di grande importanza, perché fa da capire che se gli uomini di coach Antimo Martino riescono a mantenere la partita sui propri binari, ovvero del gioco, molte difese a zona, soprattutto all'inizio avevano creato un po' di problemi al coach di Cantù, poi si è creato un blocco mentale per il padrone di casa, e qui la Fortitudo è stata molto molto brava a reagire, a portare a casa una gara veramente importante. La Virtus era ferma per il turno di riposo, veniva dalla sconfitta in Coppa contro Andorra, una sconfitta che ha creato parecchie polemiche, più per il fatto che Djordjevic non ha fatto rientrare nel terzo quarto Teodosic, asserendo che il giocatore non aveva nessuna difficoltà fisica ma voleva responsabilizzare la squadra. Questo ha creato un po' di malumori all'interno e all'esterno della società. Domenica si torna in campo nel Palafiera, arriva la Cantù, che è stata sconfitta ieri dalla Fortitudo. Cantù, ribadisco, una squadra che se riesce a giocare, diciamo così, senza dover ragionare sugli ali dell'entusiasmo, è una squadra molto molto ostica, perché è molto fisica, e quindi sarà sicuramente un banco di prova per Djordjevic importante, perché fino adesso la Virtus non ha mai avuto la capacità di uccidere le gare in maniera definitiva, quindi ha sempre sofferto, e se Cantù la fai viaggiare sulle ali dell'entusiasmo, sarà sicuramente un cliente molto scomodo. Per questa settimana è tutto, buona giornata. E quindi riprendiamo noi il microfono per la rassegna stampa di questo lunedì, che apre naturalmente con quel secolo XIX giornale ligure che titola a caratteri cubitali un'altra volta, ovvero sì, un enorme frana travolto alle 14 di ieri, viadotto Madonna del Monte tra Savona e Altare. E c'è l'immagine che abbiamo visto tante volte già in TV e che i giornali ripetono, di questa enorme colata di fango che ha tranciato questo viadotto, e fortunatamente per un puro caso, diciamo, se non altro che perché col cattivo tempo perverso che sta così allagando tutto il nord-ovest italiano, beh, non c'erano poche macchine in strada fortunatamente, ma uomo avvisato per nulla salvato. E il commento a fianco, alle spalle del secolo XIX, è: la sicurezza non si garantisce soltanto a parole. Si comincia a parlare finalmente di sicurezza in termini più seri che non quelli legati a qualche taccheggiatore di autobus o qualcosa del genere, che sicuramente è un grosso disturbo, un danno, ma certamente non un danno come avere un territorio a pezzi con un cambiamento climatico che infierisce su questa fragilità. La Verità, giornale della destra, dice comunque, anche lei apre con: ci risiamo giù un viadotto stavolta a Savona, sfiorato un altro ponte Morandi, su un'autostrada sotto inchiesta. Il tema poi dell'autostrada quindi torna di attualità, ma è un paese, devo dire, che prima nega, come ha fatto il giornale della destra, come La Verità, clamorosamente, magari continua addirittura a negare che ci sia nessun cambiamento climatico, che è solo una pioggiarella di passaggio. Poi gridano lo scandalo, poi passata la tempesta, tornato il sereno, ma solo sui giornali, e ci raccontano che, per esempio, a Venezia finalmente i turisti tornano in Piazza San Marco, che mi sembra la cosa meno importante tra quelli che leggiamo. Il Messaggero: viadotto giù, Italia fragile, flagello maltempo, morta una donna in Piemonte, chiusa la 21 per una voragine, frane di fango, travolgi piloni, crolla Liguria, un pezzo della A6 Torino-Savona, l'automobilista eroe, perché i giornali, se non trovano un automobilista eroe, non so, o un pompiere eroe o un cane eroe, non stanno bene, per ricompensarci del disastro, davanti a me il baratro, ho fermato tutti, scontro Di Maio Totti appunto sulla viabilità in quel della Liguria, che viene segnalata dal Messaggero. Ancora il giornale: paese a pezzi, crolla un ponte, è un tratto di autostrada, racconta disastro maltempo, una vittima, la fradice geografia del disastro senza fine, stessi luoghi solo parole, per ricordare il giornale tre volte che ha dato agli ecologisti o alla sinistra i gufi perché parlavano di cambiamento climatico. Io torno da un weekend passato più o meno sul Lago Maggiore, che non era neanche l'epicentro della pioggia, ed era veramente impressionante la bomba d'acqua continuata che ho visto in due giorni. Li raccontano che 10 giorni che scende in questo modo e ne sembra non essere finita. Il Corriere della Sera: le piogge poi la frana, crolla un viadotto, torna la paura in Liguria, 15 mesi dal Morandi, il maltempo flagella l'Italia e non solo appunto la Liguria o l'Alto Piemonte, una donna morta nell'Alessandrino. Gian Antonio Stella, che per i Corrieri in qualche modo è quello che fa le pulci agli investimenti dello Stato e risultati per i cittadini, parla di una piaga della incuria nell'articolo di fondo. E anche qua si parla del disastro, di quello che ha fermato tutti, perché ha visto crollare il ponte davanti, ha fatto in tempo a frenare, della foto mentre lui ferma le macchine che arrivano, compreso un pullman. Pensate voi, se fosse capitato qualche secondo più tardi, come sarebbe diverso anche il conto delle vittime. Ma ancora una volta, uomo avvisato per nulla salvato. Lui racconta: mi sono fermato sull'orlo del baratro. E ancora il Corriere della Sera ci racconta di 1317 ponti a rischio nell'Italia, senza la mappa dei rischi, quindi occhio non vede, cuore non duole, ma macchina cade nel fango. Questo e poi c'è da segnalare che la donna di 52 anni morta, travolta dalla pena, è una morte sul lavoro, né più né meno, perché Rosanna è morta per andare al lavoro in una casa di riposo. Voragine di 10 metri lunga 21, Torino, Piacenza. Tanto l'eterna piaga comunque dell'incuria viene ricordata da Gian Antonio Stella ancora nelle pagine interne, tanto si interviene solo dopo. E allora la serie La prevenzione per evitare disastri e disastri ambiente, vittime e case sventrate sarebbe anche un grande risparmio economico, perché la prevenzione costa 10 volte meno che intervenire appresso. Il primo piano di Marchi Marisio nel dossier che dà sempre il Corriere: chi controlla i viadotti? Non esiste una mappa appunto dei rischi, come già si leggeva in prima pagina, dei 7317 ponti gallerie italiane. L'agenzia per monitorare, lanciata da Toninelli, è rimasta sulla carta, come ahimè tante altre cose. E questo tema, al di là della cronaca drammatica, che viene fotografata anche da Ferruccio Sansa e dal Fatto Quotidiano, non solo il Morandi, incidenti via Crucis, ieri la frana che ha battuto i piloni sulla Savona Torino, senza nessuna vittima, ma la rete al collasso, su 5 direttrici 2 sono interrotte, deviate per crolli, le altre a regime ridotto per i lavori. Quindi questo è il quadro dell'Italia, che poi chiede a gran voce grandi opere come il traforo della Val di Susa, altrimenti dicono siamo isolati dall'Europa. In realtà l'Italia è isolata da se stessa, con tanti paesi isolati da maltempo, da giorni senza gas e senza energia elettrica. E allora leggiamo il Gazzettino, e siamo nel nord-est, anche lì piove di rotto ovviamente, ma piove in tutta Italia, anche a Bologna. Italia fragile, crolla viadotto, e questo, acqua alta e maltempo, duello tra Boccia e sindacati della RAI, la polemica sull'informazione viene segnalato dal Gazzettino, sempre facendo una scorribanda nei giornali di questa mattina. Possiamo guardare ancora altri titoli che arrivano, per esempio la Gazzetta del Mezzogiorno, abbiamo dalla crolla viadotto autostrada attorno all'incubo Ponte Morandi, ma anche il Salento è flagellato dal maltempo. Sì, ovviamente un'Italietta che ha bisogno di eroi per forza di cose elegge oggi a eroe del giorno Daniele, quel signore che è stato fotografato con le braccia aperte sulla voragine, che una volta arrivato lì si è accorto di quello che era successo e ha cercato di avvisare chi lo seguiva. Direi che purtroppo non si tratta di un atto di eroismo, ma di buon senso. Vedi che non c'è più la strada, cerchi di avvisare le persone che arrivano dietro di te, però c'è bisogno di affidarsi agli eroi, ai supereroi, alla magia, perché la concretezza e le infrastrutture ormai sono affidate a questo. Si sbriciola un altro viadotto, titola Al Carlino, pioggia incessante, frana Savona, i piloni travolti aprono il baratro, ricerche sotto 2 metri di fango, il governatore Toti dice per ora nessuna vittima. Lo smottamento sulla A6 visto in diretta da decine di auto e un autobus. Ma a proposito di affidarsi alla magia, scopriamo che per alcune strade non si sa chi sia il proprietario, il che è veramente inquietante. Sarà Superman il proprietario. E infatti sempre il Resto del Carlino ci dice: su un territorio così fragile che i cambiamenti climatici mettono a ulteriore rischio, si inserisce il tema della manutenzione. ANAS ha iniziato nel 2017 un censimento di ponti e cavalcavia della rete stradale e autostradale in gestione, che ha avuto esiti sconcertanti. Sono state identificate 2.994 opere, scrive ANAS al Ministero nel dicembre 2018, delle quali si è provveduto a identificare l'ente gestore. Di queste, 983 sono risultate di proprietà ANAS, 586 di altri enti gestori, mentre per i restanti 1.425 ponti cavalcavia non è stata reperita documentazione che dimostri la proprietà e la relativa competenza. Se non si sa di chi siano, non si sa da chi e se vengono manutenuti. Dei viadotti cavalcavia ignoti, 443 sono in Sicilia, 340 in Calabria, 307 in Campania, 262 in Puglia, 182 in Toscana, 162 in Emilia-Romagna, 157 in Lombardia, 139 nel Lazio, 119 nel Veneto, 114 nelle Marche, 104 in Umbria e solo 17 in Liguria. Qualcuno dovrebbe occuparsene, e alla svelta. Cioè, è veramente il cinema dell'assurdo, se non, purtroppo però non è cinema, ma è realtà. Certo è che, lasciando anche da parte questa cosa qui, che ANAS abbia bisogno di fare un censimento per sapere quali sono i suoi, diciamo che è inquietante tanto quanto, voglio dire, questo è, non sai nemmeno di che cosa ti devi occupare, a meno che non ti metti lì un anno ogni tanto a contarli, che veramente, se non fosse una tragedia, sarebbe uno scoop comico di prima categoria. Ma andiamo avanti. La strada è sparita sotto i nostri occhi, quella massa di terra mai monitorata venuta giù dal monte. E poi abbiamo Roberto Traversi, sottosegretario ai trasporti, che ci dice dalle pagine della Stampa: costruire la gronda potrebbe creare dei nuovi problemi. E andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ho visto la devastazione a Genova, oggi il Savonese, non è una situazione normale con queste piogge. Roberto Traversi, dicevamo sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, ha tremato come tutti i liguri, perché è anche ligure oltre a essere sottosegretario. E di fronte al disastro di Savona chiede di aprire gli occhi sui cambiamenti climatici. La natura si sta ribellando, altro che parlare di nuovi buchi nelle montagne. Dobbiamo insistere nel percorso di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico, come sta facendo il ministro Sergio Costa. Che idea si è fatto di ciò che è successo? Pare evidentemente un cedimento importante del versante collinare, partito molto più in alto rispetto all'autostrada. Il tratto verso sud è stato chiuso e sono in corso verifiche sulla tenuta statica. Ci preoccupa un ruscellino, bisogna essere molto cauti e bisogna partire il prima possibile ripristinando il viadotto crollato. Per cominciare bisogna capire chi deve mettere a posto quel versante, e qui torniamo al punto di qui sopra che leggevamo dal Carlino. Finiremo per avere un altro commissario. Avete notizia di segnalazioni su quel versante, allarmi? Ora non risulta nulla di pregresso. E ancora, l'agenzia Anfisa per la sicurezza delle infrastrutture era stata creata con il decreto Genova oltre un anno fa e non è ancora operativa. Dovrà occuparsi anche del contesto in cui sono inserite le autostrade, oltre che dei controlli dei viadotti o gallerie? Non lo so, ma qualcosa va studiato, anche perché abbiamo visto di recente cosa è successo a Genova con l'autostrada che scaricava l'acqua sulla ferrovia. Serve un grande piano di monitoraggio che tenga conto anche dei versanti, di un clima che non è più quello quando furono costruite queste autostrade. Vale anche per i progetti futuri, come quello della Gronda. Per risolvere problemi di viabilità rischiamo di crearne dei nuovi o altri. Intanto oggi è di nuovo allerta rossa anche dalle nostre parti. Quindi a questo giro quello che preoccupa è il Po, perché è molto molto pieno d'acqua e l'acqua continua a scendere, quindi livelli di guardia. Fa paura il Po, che ha rischiato di inghiottire Cardè, il primo comune della pianura padana, nel Cuneese, mentre a Torino ha sommerso i Murazzi, l'area della Movida. Il Po e il Ticino hanno raggiunto inoltre il limite di guardia nel Pavese. Oggi è allerta rossa nella pianura e bassa collina occidentale in Emilia-Romagna. E non solo in Emilia-Romagna, anche al sud ci sono allerte varie, perché comunque ci sono paesi che stanno tremando, stanno attendendo che cosa caschi dal cielo e quanto. E insomma, questa è un po' la situazione anche di oggi. Ti aggiorno sul versante Valpadana, maltempo, il Ticino esondato a Pavia. Leggo questa mattina: è sempre più critica la situazione dei fiumi del Pavese per il maltempo, anche se da questa mattina non piove più. Nella notte il Ticino è esondato nel Borgo Basso a Pavia. L'acqua è salita per alcuni centimetri in via Milazzo. La strada che si affaccia, leggo ancora dal flash di questa mattina, sul fiume è questa via Milazzo. I residenti vengono aiutati a uscire di casa dalla protezione civile. che ha un bel diavolo per cappello la protezione civile tra una cosa e quell'altra. Il Po continua a salire sul ponte della Becca, superando la soglia dell'allarme rosso, e quindi, quanto diceva Francesca e me, è confermato, e oggi si attende la piena per dalle nostre parti e verso il Polesine, con tutta la preoccupazione d'obbligo. Esondato in parte nelle aree goleali, preoccupati gli abitanti delle aree dei comuni più vicini al fiume. Questo è quanto. Poi dicevi appunto l'Italia, non dimentichiamoci Torino. Torino che è andata sotto acqua, come racconta il Corriere, e i murati sono sotto, il centro storico medievale è andato sotto. A Napoli il fiume Sarno è esondato, e sappiamo il disastro di Sarno di anni fa, che incubo per gli abitanti. A Catanzaro un treno con 15 persone a bordo, quelli secondari, quelli che non vengono trattati da nessuno, rimane imprigionato in una galleria perché all'uscita c'è troppa neve che ha occupato i binari. E poi a Cuneo, e torniamo al nord, c'è gente che nella fotografia che viene aiutata sempre dal protezione civile a uscire, sono anziani. Sul ponte racconta la cattiveria di Spinoza, tu dicevi a chi appartengono le strade. La Liguria crolla un viadotto sull'autostrada A6. Il gruppo Gavio tenta di, perché è del gruppo Gavio questa volta, tenta di mettersi in pari con l'Atlantia, quella del ponte Morandi. Quindi insomma, piogge e lacrime. Siamo proprio degli imbecilli noi altri che ci preoccupiamo dell'ambiente, del clima, delle esondazioni, delle frane. Il tempo di Roma invece ha una tragedia ben maggiore, e apre con questo: il dramma dei capi Banca Italia. Cioè, cosa è successo? Poveracci, saranno sulla strada. Aboliti il contante nei bar e nei ristoranti interni. Effettivamente sui Banca Italia deve essere maggiormente monitorato e controllato, perché hanno un potere per cui un occhio di riguardo è giustificato. Ma il tempo è una tragedia greca, perché dice: vietato anche a loro pagare caffè e pasti con gli spicci. Si può saldare solo con la chiavetta unica. E qui c'è il sindacato dei dirigenti che è sul piede di guerra, perché i cassieri non ci danno neanche il resto, ci rimettono, perché i capi Banca Italia hanno problemi dei ritorni del caffè, altrimenti come fanno ad arrivare a sera? Cosa dicono alla madre, ai figli che implorano ma da mangiare? E questo è il dramma che il tempo ci segnala. Detto questo, per segnalare a nostra volta il livello di certa stampa scandalistica di Ultima, andiamo alla pagina invece della politica, P maiuscolo, P minuscola, decidete voi. In questo momento è le contrazioni peristaltiche politiche dei 5 Stelle che in qualche modo fanno deragliare la bussola della politica. E allora di caos parlano più o meno tutti i giornali, anche se naturalmente con diversi desiderate, con diverse prospettive. I guai dei 5 Stelle, secondo per esempio Vittorio Macioce del Giornale: il caos è democrazia, il 5 Stelle sta esplodendo ma Grillo è l'unico felice. Il movimento va verso l'estinzione, il comico sogna il gran finale con un tuffo nelle sardine. Il rinnegato Povia era l'ultima speranza, ma è stata una fregatura tale. Questo è un retroscena del Giornale, che poi avanti. La svolta rossa grillina, Di Maio rimane isolato. Vertici 5 Stelle allineati e sgarante, e nel nuovo direttorio non ci saranno fedelissimi nel capo. Insomma, quello che sembra di vincere nella... sono solo relazioni, perché i 5 Stelle sono difficili nella diagnosi, immaginate voi nella terapia, ma quello che sembra di vincere è che ci sia un Di Maio confermato ma commissariato. E secondo il primo piano di Alessandro Trocino, e qui siamo all'interno del Corriere della Sera, nel quello che si chiama il movimento, io di movimento ho un'altra idea, comunque loro lo chiamano il movimento, il blitz di Grillo scontenta i 5 Stelle e i ministri sono distanti da Di Maio. Per gli eletti i problemi restano, il capo e i suoi, se guardiamo a sinistra, Salvini ci ruba senatori. Questo, e allora, quando non sai come buttarla, si fa un vertice. Vertice 3 con Casaleggio, sul team che affiancherà il capo, in pole Di Battista e l'Appendino. E allora il 3 è il numero magico per i 5 Stelle, almeno secondo il Corriere, perché Emanuela Buzzi, Emilia Romagna ha i 3 movimenti, con il PD soli o meglio non correre. I 5 Stelle locali si dividono sulle urne, la tentazione del voto disgiunto per Bonaccini, quindi presenti, non presenti, disgiunto per Bonaccini. Ma Gallo, Luigi Gallo, deputato del Movimento 5 Stelle, dice al Corriere, anche perché poi c'è questo florilegio di vanità, ognuno fa la sua dichiarazione al Corriere per far sapere che di esistere. Il Gallo, ora la leadership collettiva con una cabina di regia, Gallo e regionale, votiamo di nuovo su Rousseau, come se quasi fosse prendere per stanchezza quelli iscritti alla piattaforma. Comunque è una convention a gennaio tra le forze di maggioranza per salvare il governo. L'idea circola tra i ministri, sarebbe l'inizio di una coalizione. Nel frattempo, dov'è Renzi? Perché è interessante per dove Renzi. Renzi è in Arabia, evidentemente è poco sensibile allo Yemen, comunque, ma è molto più sensibile perché è billionaire, con Briatore. Quindi Renzi frequenta solo la gente bene. Trasferta esotica, chissà quali danze del ventre. Trasferta esotica per Matteo Renzi a cena del billionaire di Riyadh in Arabia Saudita, ospite di Flavio Briatore, che ci ha messo il video su Instagram e un mese fa confidava: lo vorrei nella mia squadra con Salvini. Al rinvio con 7 all'arabeggiante, ci voleva appunto danza del ventre, un po' di couscous, anche se siamo in Arabia Saudita uguale, e magari dei capellini cotillone, dei balli finti per turisti. Comunque andiamo al 7 arabeggiante, DJ 7 arabeggiante. Secondo Dago Spia c'erano faccendieri sauditi, quindi diciamo non è un viaggio disinteressato. Sì, devo dire che a proposito del discorso dei 5 Stelle che facevi tu stamattina, esce su Open di Mentana and C l'intervista a Stefano Buffagni, esponente del Movimento 5 Stelle, viceministro allo sviluppo economico, e che riprende appunto un'intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano, e dice: far cadere il governo con il PD sarebbe da suicidi, piuttosto lavoriamo il doppio sui temi e su un'idea complessiva del paese. Ma dice anche, Io sono stato l'unico a essere querelato da Matteo Salvini alla Lega, ho sempre fatto opposizione in Lombardia. Nel precedente governo abbiamo lasciato certi temi alla Lega, mentre questo esecutivo ad oggi non rappresenta le istanze del nord che produce ed è un problema. La verità è che dobbiamo tornare tra la gente a spiegare cosa facciamo e perché, dare una prospettiva. Io sto lavorando con 8 università a Italia 2030, un progetto governativo su crescita sostenibile e demografia. Il Movimento 5 Stelle e il governo devono dare un'idea di paese. Sulla questione Emilia-Romagna, correre con il PD in Emilia-Romagna non decido io e non credo sia la soluzione, ma se trasformassimo quelle regionali in una battaglia nazionale contro la Lega sarebbe un enorme regalo a Salvini. Ha concluso così questa intervista Buffagni. Ma andiamo da Zingaretti. Sì al nuovo patto con i 5 Stelle, ci dice Repubblica, ma il contratto in stile Lega non convince i big del PD. I democratici sono soddisfatti per le parole di Grillo e Conte e vogliono un'intesa politica, non notarile. Il programma c'è, si può ritoccare, quello che dice Del Rio. Boccia e Franceschini sono dubbiosi, Orfini ha già dato l'ok. E poi Goffredo De Marchis, sempre da Repubblica, ci racconta di quei contatti segreti tra Grillo e Zingaretti, telefonate tra i due per rilanciare l'accordo di governo. Il leader PD sapeva che il fondatore del Movimento 5 Stelle sarebbe venuto a Roma a fare da tramite un'amica comune. E sono le regole della politica, si sono sentiti, lasciamo stare, non facciamo confusione, meglio non dire, si rischia di complicare la situazione, dice un alto dirigente del PD, che non nega il colloquio di cui sanno un pugno di persone. Forse lui stesso ha avuto uno scambio con il fondatore del movimento nei giorni scorsi. E poi sempre questo dirigente insiste dicendo lasciamo che le cose facciano il loro corso. Ma c'è un altro mistero, però tu dicevi dove Renzi, ma anche dove Beppe Grillo, perché Beppe Grillo va a Roma, ok, Di Maio, non Di Maio, l'endorsement, andiamo avanti, contatti col PD eccetera eccetera, ma Beppe Grillo va a Roma e incontra l'ambasciatore cinese. Or dunque, anche se è Beppe Grillo, famoso, il fondatore del Movimento 5 Stelle, come si è arrivato all'incontro con l'ambasciatore cinese e perché rimane alquanto misterioso, perché non è così scontato che si incontri. Ed è stato 2 ore e mezza in colloquio sabato scorso con l'ambasciatore cinese. Si dice anche che l'incontro è stato chiesto dal diplomatico, cioè l'ambasciatore cinese ha chiesto di incontrare Beppe Grillo, però non si capisce di che cosa hanno parlato. Le cronache raccontano di 2 ore e mezza di faccia a faccia nella sede diplomatica di via Bruxelles nel tardo pomeriggio di sabato. Un altro era stato organizzato e poi era sfumato nei mesi precedenti. Insomma, c'è del feeling non nuovo per la verità. I post ospitati sul blog di Grillo, sul quale si è scatenata la polemica per i tratti giustificazionisti nei confronti del regime di Pechino, sono storia di questi giorni. Se si guarda poco indietro agli ultimi 18 mesi, ci si imbatte nei 2 viaggi del capo del movimento Luigi Di Maio in Cina, prima da vice premier e poi da ministro degli esteri, al fine di consolidare un rapporto culminato infine nel patto della Via della Seta tra i due governi. E fin qui però ci sta, era un ministro dello sviluppo economico, un ministro degli esteri che Beppe Grillo, capo di un movimento, poi capo, insomma, nume tutelare, diciamo, di un movimento, incontri l'ambasciatore. Insomma, non si riesce a capirlo, forse lo capiremo nei prossimi giorni. Ve lo lascio lì come argomento di riflessione. Sì, come giustamente ricordavi tu, Grillo non ha nessuna carica istituzionale, è un privato cittadino. Dire che l'ambasciatore cinese è insistito a parlare anche con me. 4 ore di colloquio, ma senza traduttore, non abbiamo quagliato. Comunque, detto questo, il libro scrive per l'appunto su questo argomento, apre con Grillo, si vende ai cinesi, il 5 Stelle si tinge di giallo. Beppe incontra 2 volte in 24 ore l'ambasciatore di Pechino, un bel favore a PD e Prodi, chissà poi perché, amico del dragone. Il destino del governo è in mano a comunisti asiatici, perché forse il comunista occidentale sarebbe già più sopportabile, non lo so, per il libro tutto a spese nostre e io pago, dice il libro. Insomma, i leitmotiv sono sempre quelli della destra. Invece il giornale è scandalizzato, dice non è possibile. Carola, vedi Carola Rackete, quella che guidava la nave dell'ONG che ha sbarcato Grillo, Salvini la voleva in galera, invece è stata assolta da ogni responsabilità. Carola usa la TV di Stato per esaltare i clandestini. Polemiche per la passerella da farsi della capitana Rackete. La Lega doveva stare in cella, perché la Lega, no, è anche organo giudiziario oramai. Se Grillo è l'ambasciatore, la Lega è anche giudice. Quindi carroccio scatenato, conduttori militanti, intervenga il DG Salini, sarebbe Fazio. Leu, livore di Salvini, da Salvini e i camerati. Questo è lo scontro che... Ma Salvini, che ce l'ha tanto con la TV di Stato perché dà spazio una volta a Rackete, Carola, viene invece essere protagonista dell'apertura del Fatto Quotidiano, altro che una volta. Tele Salvini, 100 ore in TV in 4 mesi, più di Conte il triplo di 5 stelle PD. E qualcuno non dica doveva stare in galera Salvini, perché non si dice. I dati G invece sono 47 milioni di qua, 49 milioni là, insomma, siamo perdere. I dati G conti sulle presenze dei leader nei TG e nei talk show. Da luglio ad oggi il capo della Lega ha parlato sulle 7 reti generaliste per 101 ore, magari fossero minuti, 17 minuti. Il Premier segue con 90, lontani Di Maio 36 e Zingaretti con 29. Questo è il quadro. Ma Salvini è anche protagonista sui giornali. Oggi Cesare Zapperi dal Corriere: per il popolo dei 5 Stelle è un tradimento fatale, la mia porta è aperta. Quindi cerca di inserirsi per succhiare un po' di senatori 5 Stelle per far cadere il governo, magari promettendogli qualche prebenda nelle prossime candidature, anche se poi i 5 Stelle più di tanto non ci credono a queste promesse. Il nemico di Salvini, sappiamo adesso, sono le sardine. Questo è il tema che ritorna su molti giornali questa mattina, e per esempio debutto negli USA, perché è a New York, mentre in 7.000 Rimini per le sardine, un'altra piazza strapiena, nonostante la pioggia e il maltempo, oscurati su Facebook. Perché Facebook sembra che oscuri chi parla dei curdi contro oscura le sardine, non so se la sardina è una cosa oscena, non so cosa, perché comunque. Quasi in contemporanea con la presenza di Salvini, le sardine hanno riempito piazza Cavour a Rimini con un flash mob organizzato anche a Fiorenzuola. Erano in 7.000 secondo gli organizzatori, credo che la foto dia ragione. Abbiamo già in calendario 30 piazze e ne si aggiungeranno un'altra ventina, assicura Maria Santori, uno dei leader. In serata la pagina Facebook delle sardine è stata oscurata dopo molte segnalazioni. Segnalazioni di chi? Dei leghisti. Comunque, senza giusta causa protestato il movimento, che intanto è arrivato anche a New York con un piazza, un centinaio di sardine atlantiche, così si definiscono. Ma diceva Henry De Luca, grandi le sardine ma attenti agli ami. E allora oggi Carino Bologna ci racconta: PD posti in lista per le sardine, Caliandro, ok, elezioni regionali. È un modo è come entrare come un elefante nel negozio di cristallerie per svalutare un movimento e entrare nella logica salviniana. Questo comunque si parla, poi chi sarà, chi saranno non si sa. Dunque le sardine si muovono, chiunque se l'ho chiesto, e magari ognuno di noi ha anche fatto furiosamente zapping in questi giorni, con da un talk show politico all'altro. Il volto di Mattia Sartori è stato ovunque per avere una risposta alla domanda delle domande. Le sardine, ieri misteriosamente oscurato su Facebook, si candideranno alle regionali? Forse sì, ma non con una lista propria. Da quanto trapela, la coalizione di centro-sinistra si sta lavorando e un posto per un rappresentante del movimento potrebbe essere trovato nella lista del presidente Bonaccini. Però c'è anche un piano alternativo, che invece ha già un nome, perché sul primo nome non c'è nessuno, invece sul piano alternativo un nome c'è. Sarebbe Andrea Colombo, a Colombo, ex dal traffico, l'ha priscato di sardine, qualora nessuno degli ispiratori volesse provarci. Insomma, hanno già la finta sardina, casomai, da mettere in campo. Questo è quello. Anche perché invece Danilo Maglio, uno dei inventori a Bologna delle sardine, diciamo così, uniti per tolleranza e libertà, 45.000 sardine anti-Salvini. All'assalto la Lega, che governa già in 6 comuni su 10, punta a espugnare la roccaforte della sinistra, la regionale di maggio, rischio concreto per divisione del PD e dei 5 Stelle. Di fronte al finto nonsense delle sardine, Salvini è rimasto inizialmente spiazzato, non sapeva cosa dire, poi alla fine, tra tentazioni di fair play e tentazioni di machismo, ha preso la strada dello scontro, del nemico. E quindi, pesciolini fritti e insalata, Matteo Salvini non rinuncia a prendere in giro il movimento delle sardine. E ieri sul social ha postato una foto del suo pranzo a Rimini, prima aspetto le 7.000 sardine, aggiungendo gli emoticon con uno smile e di un pesce. Insomma, le sardine contro lo squalo. Certo è che è molto più facile prendere qualche elemento delle sardine e infilarlo nelle liste piuttosto che creare un momento di confronto con le sardine e magari provare a dare delle risposte programmatiche, visto che ti stai per proporre riconferma di un governo di una regione, ma o di più regioni. Comunque vedremo, speriamo che le sardine si sottraggano a questa operazione. Emilia Di Maio resiste, intesa solo con liste civiche, in bilico l'incontro con i consiglieri regionali grillini che vogliono l'accordo col PD. Il capo politico punta a creare il team del futuro, escludendo però dalla segreteria i suoi competitor interni. E sulla giustizia avverti i Dem: non bloccate la riforma. Intanto sardine battono Salvini in Romagna, il movimento fa il pieno di adesioni, poche centinaia di persone all'iniziativa dell'ex ministro, la denuncia dei ragazzi, perché ieri è successo anche questo, è stata oscurata per un po' di tempo la pagina Facebook delle sardine, ovviamente per una pioggia di segnalazioni che vi lascio immaginare da dove siano arrivate. Ora tutto bene, ritornato in onda. E ancora Emanuele Lauria dalle pagine della Repubblica ci racconta quando il voto è una sfida tra buon governo e voglia di cambiamento. A Firenze e a Bari vince la buona amministrazione, a Torino e a Trento no. Ecco perché Bonaccini in Emilia può resistere all'assalto di Salvini. C'è anche, a proposito di assalto di Salvini, una cosa curiosa che è successa ieri, o almeno di cui si è avuto conto ieri, è che a seconda di chi commissiona i sondaggi per quel che riguarda l'Emilia-Romagna cambiano i risultati, ma in maniera massiccia, non di quella forbice dell'1-2%, proprio si ribaltano le situazioni. E quindi un sondaggio commissionato dalla Lega dà avanti il centrodestra di 7-8 punti rispetto al PD, con qualche differenza di un paio di punti se si allea con i 5 Stelle, ma comunque insomma una voragine separa il centrodestra da tutto il resto, mettiamola così, così è più semplice. Mentre un altro sondaggio commissionato invece dal centro-sinistra ribalta completamente la situazione, quindi vai te a capire quale sarà quello buono. E forse è il caso di non affidarsi troppo al... Dicci. Abbiamo un servizio su questi sondaggi commissionati da chi? Ah. Quindi... Veniamo al sondaggio per cui l'azione della base 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau di partecipare alle elezioni regionali del 26 gennaio. Quello, questo sondaggio dice che mette in gran difficoltà il presidente uscente Bonaccini. Ne abbiamo parlato con il sondaggista Antonio Noto, sentiamo le sue valutazioni. Secondo le nostre stime rende il risultato ancora più incerto. Abbiamo presentato un sondaggio con tre possibili scenari. Il primo, che è quello a questo punto più realistico, che prevede la partecipazione del candidato del Movimento 5 Stelle e vede sostanzialmente un testa a testa tra Bonaccini e Borgonzoni. Noi diamo solo un punto avanti Bonaccini, ma appunto, trattandosi di un sondaggio, un errore statistico, un punto nella realtà è un testa a testa. Cosa sarebbe successo se invece sulla piattaforma Rousseau avessero votato invece a favore dell'assenza del Movimento 5 Stelle? Ecco, in questo caso il vantaggio di Bonaccini sarebbe aumentato a circa 3 punti. Però rimane ancora in piedi una terza ipotesi. Ieri sulla piattaforma Rousseau si è votato, come dire, la presenza del Movimento 5 Stelle, ma non si è votato un'alleanza o non un'alleanza con il candidato del centro-sinistra. Quindi questo è ancora uno scenario perseguibile. Noi abbiamo testato anche questo scenario, cosa potrebbe accadere se il Movimento 5 Stelle si alleasse invece con Bonaccini. Ecco, in questo caso i punti a favore del presidente uscente dell'Emilia Romagna sulla Borgonzoni diventerebbero 6. Perché questo accade? Perché sostanzialmente quella parte di elettorato, che possiamo dire un po' lo zoccolo duro del Movimento 5 Stelle, non ha più quella componente di destra. La componente di destra ormai è già passata alla Lega nel corso di quest'ultimo anno, ma è rimasta, diciamo, quella componente di provenienza più di centrosinistra o post-ideologica. Quindi l'eventuale assenza del Movimento 5 Stelle non avrebbe generato consensi a favore di Borgonzoni, ma avrebbe generato consensi a favore di Bonaccini. In teoria questa ipotesi è ancora in piedi. Dopo il voto in Umbria con un risultato, come dire, non soddisfacente per questa alleanza, alcuni esponenti, tra cui lo stesso ministro Luigi Di Maio, tenderebbero a escludere questa strada. Sicuramente la si può escludere per motivi politici. Non voglio allearmi con il Partito Democratico, ma non per motivi tattici, nel senso che il paragone con l'Umbria non regge, perché in Umbria ci si è andato al voto anticipato perché c'è stata una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il presidente dell'Umbria, che era del PD, situazione invece completamente dissimile in Emilia Romagna, quindi non è paragonabile. Poi se già abbiamo un confronto rispetto al dato delle elezioni europee, diciamo, alle elezioni europee la somma dei voti tra il PD e il Movimento 5 Stelle era comunque sotto di circa 6-7 punti rispetto alla somma dei voti al centrodestra. In Emilia Romagna, appunto, se sempre confrontiamo con i dati delle elezioni europee, la somma dei voti del PD e del Movimento 5 Stelle più gli altri al centro-sinistra sarebbero 10 punti sopra invece il centrodestra, quindi si parte sicuramente in una situazione completamente diversa rispetto all'Umbria. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. A proposito di quello che si diceva nel servizio, vi segnalo un'intervista a Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera e ovviamente esponente di peso del Movimento 5 Stelle, un po' più ortodosso rispetto, che so, al pensiero di Di Maio, per capirci, e dice: inizialmente condividevo la linea di Luigi di non presentarci, ma capisco anche la grande pressione arrivata dai territori. Adesso però non escluderei di tornare su Rousseau per chiedere agli Emiliano Romagnoli e ai calabresi se preferiscono vederci correre da soli o alleati con il PD. Poi dice, dice: se fossi un Emiliano Romagnolo non premierei chi ha questo atteggiamento. Si riferisce a Salvini, che sta usando l'Emilia Romagna solo per poter mettere quel voto sul tavolo del governo nazionale. Se Di Maio, poi dice ancora: se Di Maio ha un pensiero che guarda in quella direzione, ovvero quella della Lega, perché la domanda era su questo, se è ancora aperta una finestrella, una porticina, qualcosa, un buco. Ma dopo quello che è successo ad agosto, il Movimento 5 Stelle non può più avere a che fare con la destra estrema di Salvini e Meloni. Da capo politico credo Luigi abbia capito che in questo momento l'unica strada possibile, suo malgrado, sia quella con il PD. Grillo è stato chiaro. Il ritorno di Beppe è positivo, è un punto di riferimento per tutti noi. Adesso non so come deciderà di gestire la sua presenza, ma più lo abbiamo vicino, meglio è. Luigi resta il capo politico, e su questo non c'è più molto da discutere. E allora alla fine gli viene chiesto: anche il PD plaude al ritorno di Grillo, può iniziare una fase con meno polemiche? È normale ci siano state delle divisioni, siamo in una fase di transizione con un soggetto politico come Italia Viva, che è appena nato e ha bisogno di creare una propria identità, anche dicendo dei no, mentre noi abbiamo bisogno di ripartire dalla lotta ambientalista, ma la maggioranza è salda e quando lavoriamo insieme si trova la sintonia. Italia Viva, al voto, anche con storia di copertina del Fatto Quotidiano, Toscana, l'argine o rosso, ora scricchiola, perché Italia Viva di Renzi ha imposto il candidato quel Gianni, detto l'uomo delle tartine, non delle sardine, delle tartine, che è diverso, il re dei buffet potremmo dire, non gradito dai zingarettiani, 5 Stelle verso la corsa in solitaria. Questa è la pagina della politica, naturalmente non dimentichiamoci l'economia, ex Ilva, la rivolta dell'indotto. Questa è la pagina della Gazzetta del Mezzogiorno e naturalmente sappiamo quanto conti le preoccupazioni sulla sicurezza sociale, neanche nelle indicazioni di voto. O Mittal ci paga o sarà blocco totale, dice l'indotto. Sì, perché Mittal ha detto che pagherà solo i fornitori strategici. Noi ci domandavamo se chi ha fornito carta igienica o cancelleria è considerato strategico e se ha diritto a avere dei soldi e deve fallire tutti i costi. Questa è la logica delle multinazionali. Domani vertice con l'amministratore delegato Morselli, che sembra essere stretta tra la rabbiatura della Mittal e il governo italiano e i suoi giudici. Governa, però di Conte dice basta liti. Veniamo invece a un altro spunto e siamo al terreno del dramma, che ormai sembra non creare più neanche un minimo di orticari nella coscienza dell'informazione pubblica, ovvero sia il nuovo naufragio a Lampedusa, in mare i corpi di 5 donne. Con questo mare, in questo tempo, il mare è davvero una tomba. 15 migranti ancora dispersi, salvi in 149 grazie alle segnalazioni dei pescatori. Come la usa il giornale, a parte Carola che ha fatto parlare in TV e secondo il giornale è uno scandalo, ma frontiere aperte, il governo smonta il decreto sicurezza e i migranti invadono subito i porti italiani. E questo barcone naufragato era un barcone che non stava aver riuscito a sfuggire ai controlli e quindi non sta in nessuna legge evidentemente, anche perché nessuna legge può fermare la disperazione. Mentre Crancic, il vignettista del giornale, così la racconta: assalto alle ONG delle coste italiane. Lo spingete, dice una nave di una ONG davanti a tante altre delle ONG. C'è un porto per tutte, meno male, perché la gente altrimenti muore. Questo è il ragionamento del giornale sull'immigrazione. Sì, torno un secondo all'Ilva, perché c'è un'intervista che vi voglio segnalare al sottosegretario alla presidenza. In arrivo un decreto con tanti nuovi progetti, università, sanità e lavoro, pronto il cantiere Taranto. E l'intero paese deve cedere qualcosa a favore di un territorio che da anni si sacrifica per la crescita. Quando parliamo di cantiere Taranto parliamo di interventi aggiuntivi rispetto a quelli del tavolo interistituzionale. Parliamo innanzitutto di un intervento di tipo socioculturale a favore del territorio, a partire dall'insediamento di un polo universitario con un indirizzo specialistico finalizzato alla riqualificazione delle future generazioni. Puntiamo a impedire soprattutto la dispersione di quel capitale umano su cui basare in futuro la riconversione economica di tutta quest'area. Oggi, visto che Taranto abbiamo solo sedi distaccate, frequentate appena da 3.000 giovani, ce ne sono altri 17.000 che perdiamo perché sono costretti a emigrare. Il problema più urgente riguarda i 500 portuali per quanto riguarda il fronte del lavoro, che dal 1 gennaio resteranno senza ammortizzatori. Per questo stiamo lavorando col Ministero del Lavoro per prolungare i sostegni a loro favore, mettere poi in campo un intervento di riqualificazione professionale in modo da creare le condizioni per farli riassorbire da una grande compagnia internazionale che ha da poco rilevato la gestione di una parte del porto, la Gilport, che si è impegnata a riassumere tutti entro 2 anni. E infine gli viene chiesto: ma l'emergenza Ilva invece come si affronta? Innanzitutto dobbiamo prevedere un sostegno a favore dei 1.900 cassintegrati che sono rimasti con l'amministrazione straordinaria. In questo caso pensiamo di creare un fondo per favorire mobilità e reinserimento, sfruttare la disponibilità di alcune importanti imprese pubbliche che potrebbero trasferire o realizzare a Taranto alcune fasi dei loro processi produttivi. Intanto, evitato il blocco delle merci, oggi la verifica dei pagamenti. Ma a proposito di a cavallo, diciamo, tra le coste del Mediterraneo, vogliamo dirla così, andiamo a Regeni. Ecco la piattaforma anonima per raccogliere informazioni sull'omicidio. Le segnalazioni trasmesse via web arriveranno in maniera sicura direttamente ai legali dei familiari di Giulio. Quindi è stata attivata questa piattaforma perché fanno un appello ai genitori, chi sa qualcosa lo dica. Repubblica, insieme alla famiglia Regeni, ha deciso per questo di offrire uno strumento che consenta di aprire una strada alternativa alla collaborazione istituzionale. Nasce per questo da oggi Regeni Files, una piattaforma dove chiunque in modo anonimo e sicuro potrà inviare informazioni o documenti utili all'accertamento della verità sull'omicidio di Giulio. La piattaforma, sviluppata sulla base di GlobalX, un software della italiana Hermes Center, una società no profit, progettato in modo tale che neanche chi la gestisce o legge le segnalazioni possa identificare il mittente. Qualche spicciolo di estri perché il tempo stringe davvero. Trionfo dei candidati anti-Cina, il messaggio di Hong Kong, sì. Il voto dei distretti premia chi sostiene la rivolta. Fluenza raddoppiata rispetto a 4 anni fa, racconta Guido Santevecchi dal Corriere. Ma non solo Hong Kong è in piazza, incidenti in tutta l'America Latina, dalla Bolivia dove continua il massacro dei golpisti e verso i manifestanti, alla Colombia insorta, al Cile e la repressione. Cile, il mistero di Betty, trovato ucciso in casa dopo le foto e le proteste, sparite le apparecchiature, ma gli amici serve cautela. Negli ultimi giorni si era unita ai cortei di protesta contro il governo di Piñera, che appunto è quello che alcuni dicono il nuovo Pinochet. In America, Bloomberg nella mischia nelle primarie Dem, se vince Trump alla fine, la corsa ufficiale sarà il più ricco, Biden il primo avversario. Dice Bloomberg: mi pago io la campagna elettorale e non vorrò lo stipendio, di soldi chissà, può anche permetterselo, anche perché poi i ritorni sono trasversali. Si vota anche in Inghilterra tra poco, altro che Brexit, nelle urne britanniche conterà il clima, questo secondo la convinzione di Amadine e Alexandre del Fatto Quotidiano. E il nodo ambiente e il riscaldamento globale in testa alle preoccupazioni di un terzo degli inglesi. Quella del 12 dicembre saranno le prime elezioni climatiche della storia del regno. Sì, torno un attimo in Cina, velocissima, perché un po' su tutti i giornali, in piccoli trafiletti, ma si parla proprio degli uiguri, tra virgolette, rieducati nelle prigioni di Pechino per non consentire fughe, promuovere il pentimento, aumentare le punizioni. Lo studio correttivo del mandarino è la massima priorità. Sono alcune delle regole di un memo segreto che provano senza margine di dubbio le pratiche sistematiche di lavaggio del cervello messe in atto dalla Cina su centinaia di migliaia di uiguri chiusi in una rete di campi di prigionia ad alta sicurezza. Ricordiamo che gli uiguri sono la minoranza musulmana rinchiusa appunto e sottoposta al indottrinamento per questo gruppo etnico appunto. Per chiudere mi sposto all'Unione Sarda, perché parla di Brozzo, il centro i trapianti nel caos, nessun medico in servizio, salta il prelievo su un donatore in quel di Sassari. Il che ci porta alla sanità nostrana, che con tutti i suoi problemi è comunque un modello rispetto ad altre regioni. Allora parliamo del sangue proprio. Donare sangue è importante, ma fa bene anche a chi dona. Ne è convinto il presidente di FIDAS Bologna, Luciano Signorini, raggiunto dal nostro Claudio Succi. In questa nuova intervista noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti. Parliamo di FIDAS Bologna, ma preferiamo che sia tu stesso a raccontarcelo. FIDAS Bologna è un'associazione che promuove il dono del sangue. Siamo una realtà locale che conta circa 6.000 donatori periodici, che significa che periodicamente si recano a donare, per un totale di circa 12.000 donazioni all'anno. Facciamo parte comunque di una realtà molto più grande, che è la FIDAS nazionale, che conta circa 500.000 donatori raggruppati in 76 realtà locali. Diciamo, ecco la differenza rispetto ad altre associazioni che sono presenti su tutto il territorio. Questa è la differenza fondamentale, ma propagandiamo il dono del sangue. Il dono del sangue, che è fondamentale per poter effettuare per esempio le operazioni chirurgiche. Esattamente. Allora, purtroppo c'è ancora molta ignoranza su questo argomento. Spesso e volentieri mi capita, fermando le persone o quando siamo fuori con banchetti per fare propaganda, è che le persone pensano che il sangue serva per incidenti, per infortuni, cose di questo genere. È il 3% del sangue che viene utilizzato per questi eventi. Il restante praticamente, oggi come oggi, serve per trapianti, soprattutto trapianti, interventi chirurgici, talassemici sono quelle persone che per un problema congenito alla nascita non producono pochi globuli rossi, hanno bisogno ogni 15 giorni di sottoporsi per tutta la vita a trasfusioni di sangue, due sacche normalmente ogni 14 giorni. Tu stesso sei stato un donatore di sangue. I nostri ascoltatori, fra cui anche quelli più giovani, cosa si prova a fare questo? Allora, io sono tuttora un donatore di sangue, ancora per poco tempo, purtroppo, infatti è uno delle mie, non so neanche come definire, ecco, so che è ancora per un paio d'anni, perché il limite di età è stato allungato qualche anno fa, è stato portato da 65 a 70 anni. Allora, la cosa che dico spessissimo, che mi ripeterò all'infinito: dopo aver donato stai meglio. Soprattutto noi, e qui faccio una distinzione, noi maschi che non abbiamo il ricambio, le donne hanno, con la questione del ciclo, effettivamente hanno un ricambio continuo del sangue, noi questo non l'abbiamo. Parlavo ieri, ero in donazione nella sezione dove tengo praticamente il contatto diretto con i donatori. Effettivamente la sensazione che si ha dopo donato sarà una questione anche psicologica, sai di aver fatto qualcosa per gli altri, ma sicuramente ne hai un beneficio anche fisico. Questo è fondamentale. Qualche tempo fa un vecchio donatore, non più donatore, mi diceva: ma sai che quando donavo stavo meglio. Allora gli ho detto: ma probabilmente avevi anche qualche anno in meno e forse anche quello contava, ecco. Però veramente, ecco, è una cosa che bisognerebbe provarla, ecco. Io spesso e volentieri dico anche un'altra cosa, dico: donare sangue ha una controindicazione da dipendenza. Non è raro il caso di donatori che di fronte al rifiuto a far donare, proprio un paio di mesi fa ne ho avute due per limiti di età, uno addirittura non gli ha fatto neanche l'ultimo, dice: l'ultima me la poteva far fare. Purtroppo anche lì la legge è abbastanza rigorosa, però c'è veramente il dispiacere di non poterlo più fare. Quindi, per chiunque volesse provare questa esperienza, che è insieme sia di dono e dono di vita, che non è poco, certo, che di benessere, come ci si può? Noi facciamo capo, direi da sempre, al centro trasfusionale del Sant'Orsola. Basta contattare il centro trasfusionale al 051 214 35 39 oppure 051 214 30 69 dalle 7:30 del mattino alle 14, dal lunedì al sabato per prendere appuntamento. Nella prima fase c'è un controllo dell'idoneità del donatore con una compilazione di una serie di moduli dove uno deve praticamente dare la propria storia clinica, visita col medico e se non ci sono controindicazioni, perché ci sono dei limiti. Allora, innanzitutto 18 anni, età minima, e peso minimo 50 kg. Poi ci sono delle patologie che inibiscono all'inizio la donazione, e quindi lì è il medico. Dopodiché, fatta l'idoneità, passata qualche settimana, arriva la convocazione, uno comincia a donare e di lì. L'augurio, una bellissima storia. L'augurio che faccio a tutti quanti e chi comincia di continuare a donare per una vita. Finché doni vuol dire che oltretutto stai bene, puoi condividere il tuo stato di benessere con qualcuno che magari è stato meno fortunato di te. Ricordiamo quindi anche il sito web, che è Fidas Bologna. Esattamente, ecco, io adesso mi ero per chi non ha segnato il numero? Per chi non ha segnato il numero, Fidas Bologna, ci sono tutte le indicazioni utili per poter, oltretutto adesso col nuovo sito che abbiamo rinnovato qualche settimana fa, c'è la possibilità anche di essere contattati direttamente, basta solo registrarsi sul sito.